Capitolo 153. La morte di Apsirto. Molti e contrastanti sono i racconti sul ritorno dell'Argo in Tessaglia, benché tutti concordemente affermino che, seguendo il consiglio di Finio, gli Argonauti navigarono attorno al Mar Nero nel senso contrario al giro del sole. Alcuni dicono che quando Eete raggiunse gli Argonauti alla foce del Danubio, Medea uccise il suo piccolo fratellastro, Apsirto, che aveva portato con sé a bordo, e lo tagliò in tanti pezzi, gettandoli a uno nella corrente. Questo crudele stratagemma attardò gli inseguitori, poiché Eete fu costretto a recuperare ogni pezzo per seppellire degnamente Apsirto a Tomi. Pare che il vero nome del fratellastro di Medea fosse Egialeo, poiché Apsirto, che significa trascinato dalla corrente, ricorda soltanto quel che accade delle sue sparse membra dopo la morte. Secondo altri, l'assassinio di Apsirto avvenne a Eea e Giasone uccise anche Eete. Secondo la versione più circostanziata e coerente, tuttavia Apsirto, che inseguiva Giasone per ordine di Eete, piombò sul largo alle foci del Danubio, dove gli Argonauti si disponevano a fare sbarcare Medea in un'isola sacra ad Artemide e ad affidarla alle sacerdotesse per alcuni giorni. Frattanto il re dei Brigi avrebbe giudicato il caso e stabilito se Medea doveva ritornare in patria o seguire Giasone in Grecia e in quali mani doveva restare il vello d'oro. Ma Medea mandò in segreto un messaggio ad Apsirto dicendo di essere stata rapita con la forza e supplicando il fratello di accorrere in suo aiuto. Quella sera, quando il giovane sbarcò sull'isola e ruppe così la tregua, Giasone lo seguì, si appostò in agguato e lo colpì alle spalle. Poi amputò le estremità di Apsirto e leccò qualche goccia del sangue sgorgato, sputandola subito per non essere perseguitato dall'ombra del morto. Non appena Medea ritornò a bordo dell'Argo, gli Argonauti assalirono i colchi rimasti senza capo, sparsero il panico nella piccola flotta e fuggirono. Alcuni sostengono che, dopo l'assassinio di Apsirto, gli Argonauti invertirono la rotta, raggiunsero i Fasi nel Mar Caspio e di lì passarono nell'Oceano Indiano, entrando infine nel Mediterraneo dal lago Tritonio. Altri invece dicono che l'Argo risalì il Danubio e la Sava e passò nel Po, ridiscendendo fino all'Adriatico. Colpita da un susseguirsi di tempeste, fu costretta a veleggiare lungo le coste della penisola italica finché raggiunse l'isola di Circe e Ea. Altri ancora dicono che l'Argo risalì il corso del Danubio, giunse all'isola di Circe passando dal Po e dagli Acquitrini, dove questo fiume si congiunge col grande Rodano. Altri ancora affermano che gli Argonauti vogarono lungo il Don finché ne raggiunsero le sorgenti, poi trasportarono l'Argo fino alle acque di un altro fiume che sfocia nel Golfo di Finlandia, oppure che dal Danubio passarono all'Elba e navigarono così sino allo Jutland, e che di lì si diressero verso l'oceano, a occidente, oltrepassando le isole britanniche e l'Irlanda, e raggiunsero l'isola di Circe dopo aver navigato tra le colonne di Eracle e lungo le coste di Spagna e di Gallia. Queste tuttavia sono rotte impossibili. L'Argo in verità ritornò passando dal Bosforo, donde era venuta, e superò l'Ellesponto senza difficoltà, perché i troiani non potevano più opporsi al suo passaggio. Infatti Eracle, al suo ritorno dalla Misia, radunò una flotta di 6 navi, fornita dai Dolioni e dai loro alleati Percotei, e risalendo lo Scamandro col favore delle tenebre, colse di sorpresa e distrusse la flotta troiana. Poi si aprì un varco sino a Troia a colpi di clava e chiese al re Laomedonte le cavalle divoratrici di uomini di re Diomede, che gliele aveva affidate qualche anno prima. Quando Laomedonte negò di averne mai sentito parlare, Eracle lo uccise con tutti i suoi figli, salvo il piccolo Podarce o Priamo, che nominò re in sua vece. Giasone e Medea non si trovavano più a bordo dell'Argo. La figura oracolare posta sulla prua aveva parlato ancora una volta, rifiutando di trasportarli sulla nave finché non si fossero purificati del delitto compiuto. Partendo dalle foci del Danubio, dunque, essi avevano raggiunto l'isola di Circe, zia di Medea. Quest'isola non era la Eea in Campania, dove più tardi Circe si trasferì, ma la sua primitiva sede istriana. Medea e Giasone vi si diressero seguendo la strada per la quale giungevano ogni anno a Delo i doni degli Iperborei avvolti nella paglia. Circe, cui essi si presentarono come supplici, li purificò di malavoglia con il sangue di una giovane scrofa. Ora gli inseguitori colchi avevano ricevuto l'ordine di non tornare in patria senza Medea e senza il vello d'oro. Immaginando che Giasone con la sua compagna fosse andato da Circe per purificarsi, seguirono largo nel mare Egeo e poi, oltre il Peloponneso, su lungo le coste illiriche. Infatti essi avevano supposto, e con esattezza, che Giasone si fosse messo d'accordo con gli Argonauti perché venissero a prenderlo a Eea. Alcuni tuttavia dicono che a quell'epoca Apsirto aveva ancora il comando della flotta colchica e che Medea lo uccise in una delle isole illiriche dette ora Apsirtidi. La fusione delle leggende del viaggio verso Oriente e del viaggio verso Occidente fu comunemente accettata finché le cognizioni geografiche dei Greci non aumentarono e parve impossibile conciliare tra loro i vari elementi del racconto, cioè la conquista del vello d'oro nella regione del Fasi e la purificazione di Medea e di Giasone compiuta da Circe che viveva nell'Istria o in un punto della costa occidentale della penisola italiana. Tuttavia, poiché nessuno storico del tempo poteva affrontare il rischio di disgustare il suo pubblico mettendo in dubbio la veridicità del viaggio degli Argonauti, si suppose dapprima che costoro fossero ritornati dal Mar Nero risalendo il Danubio e la Sava e raggiungendo così l'Adriatico. In seguito, quando gli esploratori scoprirono che la Sava non sfocia nell'Adriatico, si suppose che vi fosse una congiunzione tra il Danubio e il Po. E quando poi fu dimostrato che il Danubio era navigabile fino alle porte di ferro e non comunicava con il Po, si immaginò che largo passasse dal Fasi nel Mar Caspio e poi nell'Oceano Indiano, dove si trovava una seconda colchide lungo le coste del Malabar, e ritornasse seguendo il fiume Oceano fino al lago Tritonio. Anche questa terza rotta si rivelò impossibile e i mitografi supposero allora che largo avesse risalito il corso del Don, che si credeva avesse le sorgenti presso il Golfo di Finlandia, circumnavigando poi l'Europa per giungere nel Mediterraneo attraverso lo Stretto di Gibilterra, o comunque che arrivasse all'Elba dopo aver risalito il Danubio, portata sulle spalle dagli Argonauti, e dall'Elba tornasse di nuovo in mare. Diodoro Siculo, il quale ebbe il buon senso di capire che Largo poteva essere ritornata in patria soltanto passando dal Bosforo, discusse del problema in termini molto realistici e fu l'unico a far notare, con molta intelligenza, che l'Ister, ora Danubio, fu spesso confuso con l'Istro, un fiumiciattolo che si getta in mare nei pressi di Trieste. Anche ai tempi di Augusto, infatti, il geografo Pomponio Mela diceva che il ramo occidentale del Danubio si getta nell'Adriatico con una turbolenza e una violenza che eguagliano quelle del Po. La conquista del vello d'oro, l'inseguimento dei colchi e la morte di Apsirto sono dunque episodi leggendari che senza dubbio si verificarono in origine nella parte settentrionale dell'Adriatico. Ovidio preferì credere che Apsirto fosse stato assassinato alla foce del Danubio e sepolto a Tomi, poiché quello era il luogo dove anch'egli pareva destinato a morire. Ea si dice fosse l'isola di Crise, padre di Minia e bisnonno di Frisso, e Crise significa dorato. Può darsi che fosse appunto l'ombra di Crise, non quella di Frisso, che i Mini dovevano placare quando partirono alla conquista del vello d'oro. Secondo Strabone, Frisso fu onorato con un santuario eroico a Moschia, sul Mar Nero, dove non si sacrificano mai arieti. Tuttavia la fondazione di quel santuario risale a epoca più tarda e fu dovuta alla fama ormai raggiunta dal viaggio del largo. Anche i Romani, infatti, innalzarono santuari a eroi ed eroine greci che avevano inserito in modo fittizio nella loro storia nazionale. Il nome Apsirto, che ricorda l'episodio delle sue sparse membra trascinate via, era forse un appellativo locale di Orfeo smembrato dalle Menadi. Valerio Flacco e Diodoro Siculo affermano ambedue che Eracle saccheggiò Troia durante il viaggio di andata e non al ritorno, ma pare si tratti di un errore.